quest'oggi la domanda del test attitudinale era molto breve, ma avete azzeccato la risposta oppure no? Si parlava di pantere nere e ipotizzavamo la possibilità che queste fossero una squadra di bodyguard ingaggiata a fine anni 60 dai Rolling Stone per il servizio d'ordine nel corso dei loro concerti. Erano queste le pantere nere? No, assolutamente sbagliato. Quelli erano gli Hells Angels, i bikers, motociclisti che crearono non pochi problemi, compreso un omicidio, uccisero un ragazzo di colore malinterpretando le sue intenzioni. Ma torniamo alle Pantere Nere, e allora erano forse una storica organizzazione rivoluzionaria dei neri, degli States, nata alla fine degli anni 60? Ebbene sì, era proprio così, era effettivamente così, figli della contestazione degli anni 60, le Black Panthers. Ricordiamo che riuscirono ad ottenere anche una certa considerazione all'estero prima di una parabola discendente dovuta forse anche al loro distaccamento dalle istanze non violente care a Martin Luther King e al loro concetto di autodifesa come strumento di lotta. Queste erano le pantere nere, che quindi non sono esemplari di colore nero di alcune specie di felini. No, sì, lo sono. Beh, potrebbero. Quelle però sono le pantere nere. Potrebbero, certo, condizionale, però quelle sono le vere. La risposta ci era autentiche. Ineccepibile, ma sbagliata. Infatti, dunque la risposta B, certo, movimento di pensiero nato dalla contestazione. Perfetto, bravi se avete azzeccato. Due bei punticini per la patente di autentico rocker. I paid my dues, time after time. My sentence, but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my share of bad kicks in my bed, but I've come through. And I need to go on. Siamo i campioni del mondo. Non lo dice? No, sfumina così. Non finivo. No, the world. Vabbè, ok. We are the champions. E Queen. Ciao dal DJ Ariele. E siamo al quarto blocco, al quarto tempo di Pane, Burro e Rock and Roll. Tiriamo ditti fino alle 9. Una buona giornata anche ai fortunati che si svegliano solo in questo momento. Ah, vi siete persi una puntata ricca ricca, ma ce n'è ancora di carne da gettare sul nostro bracciere mattutino. Una nuova rubrica anche quest'oggi. Roba forte, ci si sprovincializza anche quest'oggi. Ma prima, promettevo, dovevo approfondire un discorso con un radioascoltatore. Ormai è risaputo, non stiamo parlando d'altro. Da domenica abbiamo consegnato le prime patenti da vero rocker. E si annusa già in questi primi giorni di diretta un po' di preoccupazione nella nostra redazione, perché alcuni di voi la stanno prendendo un filo troppo seriamente, ma forse è anche giusto che sia così. A volte ironizziamo su questa missione che abbiamo, che sentiamo dalle frequenze di A Rock FM qui al mattino, questa missione quasi militare, però tipo i caschi blu, peacekeeping operation, eh? La missione in codice si chiama Davide contro Golia, sottotitolo La nicchia vincerà. Saluto Andrea, patentato numero 147. Ariele, ieri ho ricevuto una mail da un collega che mi suggerisce le commerciali frequenze di Virgin Radio. Gli rispondo subito coprendolo di insulti o rispondo imponendo la saggia 100.7, che sono le frequenze milanesi di Rock FM? E chiude con una proposta: cosa ne dici di dare a noi neopatentati una missione a ciascun gruppo? Andrea, a me mi sembra un'ottima idea, è giusto che sia così. Ognuno di voi, noi ve lo chiediamo giorno dopo giorno, l'obiettivo che ci poniamo da Pane, Burro, Rock'n'Roll è alto. Noi vogliamo vincere la gara d'ascolti contro tutti, anche quelli grandi, non ce ne frega niente, noi siamo più grandi. Voi dovete ascoltare noi e basta. La vostra missione è far sapere in giro che bisogna alzare gli ascolti di Pane, Burro e Rock'n'Roll. Questa è la missione prima. Poi dopo come fare questa cosa dovete deciderlo voi. Comunque, Andrea 147, grazie per la segnalazione. Sì, secondo me la cosa migliore è rispondere consigliando Rock FM. È la cosa migliore. L'altro problema di questa mattina è questa storia delle patenti davvero rocker falsa. La approfondisco tra pochissimo. Intanto i Deep Purple, Black Knight. Ah, neopatentati, sono in squadra con voi. Black Knight is not right. We'll be right back. sta chitarra. I Deep Purple sfuminano anche loro. Black Knight, 8:40 minuti primi, sfuminano, è veramente provincialissimo. Dovete regalarmi un dizionario da speaker vero, perché non posso dire sfuminano. A parte che non lo capirà nessuno neanche il significato di... Vabbè. Ciao, piccolissimo gruppo d'ascolto della Garfagnana. Ciao, Walter. Viva i piccolissimi gruppi d'ascolto. Ah, ne ho cancellato uno mentre arrivava, scusa. Tu che l'hai mandato adesso, proprio l'ho cancellato, perdona. E un saluto a Mickey Rock da Firenze. Ma lo Charlotte di Colle Salvetti è un pub? No, in realtà è una discoteca gigante. Anzi, fai così, vieni questo venerdì a Colle Salvetti, allo Charlotte ci sono lì io con Dome la Muerte, che ti massacriamo con un po' di buon rock and roll. Davide 71, dai Ariele, so tutte le risposte, spediscimela a casa. Davide, non possiamo spedirvela. Io dico, non è facile organizzare di venire da tutti voi, però proponete. Soprattutto abbiamo grossi problemi sulla città di Genova, lancio l'appello. Brancoliamo nel buio, non sappiamo dove fare il primo raduno per le patenti. Amici liguri, proponete qualcosa, inventatevi qualcosa, un pub, un club. Noi abbiamo una serata di cabaret precisa e veniamo a distribuire le patenti. Proponete. Sempre a proposito di patenti, un saluto a Moreno da Milano. Che carino sto messaggio. Finalmente oggi mi è arrivata la patente professionale per il camion, ma da lunedì cambio lavoro e non guido più. Questi ragazzi, noi abbiamo degli stinchi di rocker all'ascolto che non potete nemmeno immaginare. Allora, vado da questa mail che arrivava stamattina, firmata, lui è un patentato, un neopatentato. Fatemi arrivare alla firma che non la vedo, mannaggia alle mail. J110. Allora, mi manda via mail queste quattro patenti davvero rocker che né io né Fricantoni abbiamo mai autenticato, sia ben chiaro. Quindi smentiamo che queste patenti siano veramente in circolazione. Una è di Gabriele Ansaloni, detto Red Ronnie, mai fatta. L'altra è di Rocco Anaclerio, detto Ringo, mai fatta. L'altra è di Emanuel Milingo, detto Sancta Sanctorum, mai fatta. L'altra è di Stefano Belisari, detto Elio, mai fatta. Con questo non voglio dire che questi personaggi non meritino la patente da vero rocker, ma sono finte quelle patenti. Quindi state attenti, se qualcuno vi mostra delle patenti, controllate. Il certificato di garanzia è un timbro che c'è sul retro, che è il timbro della Pistoni Roventi, che abbiamo solo noi, quindi mi raccomando. Tra l'altro ringrazio J110 per la segnalazione. Presumo di io vorrei pubblicare su RadioRockFM.com queste quattro patenti false per avvisare, insomma, di stare attenti. Perché qui se iniziano a girare quelle false siamo veramente messi male. 8:44 minuti primi. Attenzione, perché tra pochissimi istanti c'è una nuova rubrica qui su Pane e Burro Rock and Roll, fresca fresca come a brioche. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care. Did I disappoint you? Annunciato, il prossima frontiera di pane, burro e rock and roll, sprovincializzarci e addirittura trasferirci fino al lontano oriente. Ma sì, il mondo deve essere il nostro orizzonte. Siamo stati contattati addirittura dal Giappone. Ma dai, dall'altra parte del mondo. Assolutamente sì, da un DJ di una radio di Tokyo che fa il nostro stesso lavoro, propongono musica rock. Spadino, credo, potrebbe già averlo in linea, il momento è storico. Colleghiamoci da Milano fino a Tokyo, dovrebbe esserci Yashimura. Hello, hello. Cacchio, radio, Tokyo. Benvenuto, signore. Nice day, welcome. Arigato, arigato, Ariel-san, arigato, fricantoni-san. Thank allora, you. Abbiamo scoperto che sai parlare anche un po' di italiano. Welcome. Da bambino vi ho fatto scuola di italiano, ho imparato italiano. Ci sono scuole di italiani. Scuole italiane. Può essere. Si insegna italiano in Giappone. Colpo di scena. Arigato, arigato. Signor Yashimura, lei programma musica rock anche in Giappone? Rock and roll, rock and roll, rock and roll, cacchio radio Tokyo, rock and roll 24 ore su 24. Ma che genere fate? Duro, duro? Heavy metal, giapponese, giapponese, nippone. Speriamo non sia troppo per i nostri radioascoltatori mattutini. Senta, gli Schiantos sono mai arrivati fino a lì? Lei li conosce? 1, 2, 6, 9. Straordinario, fantastico. Straordinario. Senta, signore, mi è già Yashimura. Simpaticissimo. È ovvio, è simpaticissimo. Lei voleva proporci un brano di una band emergente. 1, classifica, rock and roll. Tokyo. Colpo di scena, allora ce lo lasci annunciare per i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici in esclusiva da Tokyo, il numero 1 della classifica nipponica. Senta, che gruppo è? Il gruppo si chiama Maki Kurosaki. Maki Kurosaki. Cosa vuol dire? Sa. Non è facile tradurre, ma sì. È il samurai che ucciderà tutti i cagnolini della vostra via. Perfido, pessimo, però perfido. E anche il suono sarà particolarmente crudo. Allora. Suono di heavy metal, Nippon heavy metal, rock and roll, Tokyo, Radio Tokyo. Un'esclusiva. Direi che tecnicamente siamo pronti, signor Ishimura, se vuole proporcelo, noi abbiamo orecchie solo per voi. Allora, canzone numero uno, classifica, Tokyo, Radio Tokyo, sì. Shuriken Wasabi. Eccoli qui, parte. Shuriken Wasabi. Mi stappo le orecchie. Che in giapponese vuol dire sì. Con le vostre budella sì. Addobberò i tendaggi della mia casa di Kyoto. È terribile, terribile. Troppo heavy, troppo hard. La musica però non è... sembra tradizionale. Sì, sì, un po' un figlio. Sì. Un po' perfino romantica sì, quasi. Credo non ci sia nemmeno la chitarra elettrica. Che... ma è strana. Yashimura, è questo il brano? Maki Kurosaki, numero uno, Tokyo, Radio Tokyo. Non si offenda, Yashimura, non è che ha sbagliato disco nell'infilarlo nel piatto, nel metterlo su... Non piace? No, è bellissimo, bellissimo. Stupendo. Non piace? Non piace, direttore? No. Bello. È bello. Sapoco. No. Come sapoco? Yashimura. Aspetti, Yashimura. Cosa fa? Non piace. No, ma va benissimo. Stavamo valutando, Yashimura. Ci stavamo riflettendo. Ci devono essere delle interferenze. Senti. Cosa fa? Signora Yashimura. Yashimura. Io ho sentito delle... banzai. Karakiri. Cosa fa? Ho sentito anche il rumore come di uno spada. Dottor Yashimura. Tokyo. Non piace. È finito il è saltato il collegamento. Va bene, sarà la prossima. Io sono basito. Si è ucciso. Si è infilzato. Può essere. Però il brano faceva veramente schifo. Ma non glielo possiamo dire, ci è rimasto male. Sì. Vai spadino con la musica. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I. I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Of my broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me with somebody new. I'm not that stupid. stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive, yeah. As long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. I Will Survive, è la versione dei Cake. Allora, sfumina anche questa e sono tranquillo perché ho ricevuto la telefonata di UE Fabione Treves che mi fa sapere che sullo Zingarelli Treves c'è il termine sfumino e quindi stiamo precisi. Grazie Fabione. Questa è la fine, miei cari amici, è la fine. Come dice anche Jim Morrison, ce l'abbiamo fatta. UE Fabione, anche lui, sul palco dell'Alcatraz questo sabato per la festa dei 17 anni di Rock FM. Vi aspettiamo. Mentre noi di Pane, Burro e Rock and Roll vi rinnoviamo l'appuntamento a domattina, 7 precise del mattino. Ci troverete sempre qui, sulle frequenze di Rock FM. Saluti a Fa, Max da Milano, assistenza a rocker milanesi, evitate la Ripamonti in uscita, è ferma. Pane, burro e rock and roll. Però prosegue, c'è chi sgasa lo stesso. La tua colazione rock. È rock? No, no. Pane, burro e rock and roll. Dai, sgasare in coda non è affatto rock. Very good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Perché conviene, va bene. PBR, la colazione che dà assuefazione. Tra pochissimi istanti l'appuntamento con Marco Garavelli. Lanciavo l'appello agli amici genovesi, dove ci possiamo trovare per una distribuzione delle patenti da vero rocker. Questo è il consiglio: ritrovo all'acquario di Genova nella vasca degli squali. Tra pochissimi minuti la puntata numero 23 di Pane, Burro e Rock and Roll diventerà storia sull'archivio. È un po' troppo come roba. Sarà storia nell'archivio di RadioRockFM.com e speriamo nel corso della giornata di riuscire a pubblicare anche queste patenti davvero rocker false che sono state segnalate dal patentato numero 110. L'Ariele vi saluta, vi do appuntamento a domani. Mi raccomando, sempre di più qui sulle frequenze di Rock FM.